Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Jules Jim di Henri-Pierre Rocher, edizione Gallimard, 1953, traduzione di Ena Marchi. Il pigiama bianco nel paese di Amleto. Jim rivide Jules nella sua città. Subito ritrovarono le loro ore insieme, era così semplice. Sarebbe stato impossibile a Jim dire che cosa fosse Jules per lui. Li avevano in passato soprannominati Don Chisciotte e Sancho Panza. Da solo con Jules, come in passato da solo con Kate, il tempo non esisteva per Jim. Provava insieme a lui un piacere totale per delle inezie. Si godeva il buon sigaro di Jules molto più del suo. Fin dal primo giorno Jules istruiva Jim in ogni momento senza saperlo. Jules attirava Jim come una calamita. Jules componeva poesie sulle grandi divinità indù. Un po' alla volta parlò di Kate. Aveva temuto che si suicidasse. Si era comprata una rivoltella. Diceva il tale è morto di suicidio come si dice il tale è morto di colera. Il suicidio era per lei un essere irresistibile che vi si para innanzi come una mantide religiosa e vi trascina via. Sapeva che Jim era là, che Jules lo vedeva. Concedeva a Jules un tempo limitato per vedere Jim. Non bisognava che questo cambiasse le abitudini di Jules in famiglia. Un giorno Jules trasmise a Jim un invito di Kate a venire a prendere il tè da loro. Andandoci, Jim si chiese se non era venuto proprio per rivederla. Si rispose no. Trovò una Kate ripiegata su se stessa e come vedova. Aveva dei sorrisi da morta, come aveva detto lei un giorno. Sembrava maturata, convalescente, e si muoveva con lentezza. Dopo il tè portò Jim nel grande studio di Jules e gli disse «Quest'inverno sono venuta qui da sola e vi ho immaginato seduto a questa scrivania. Allora ho preso bene la mira e ho sparato. La pallottola ha colpito il legno qui e il muro là». E gli mostrò i due segni. Di questo Jules non gli aveva parlato. Lei ebbe un gesto stanco e li pregò di fare con lei una gita l'indomani a un lago nei dintorni. Kate disse alla cameriera «Fatemi un pacchetto col mio pigiama bianco di seta». E Jules si portò appeso a un dito per tutta la giornata quel pacchettino ben legato. Jim si chiese quale sarebbe stato il suo ruolo, poi se ne dimenticò. Camminarono in silenzio lungo bei viali alberati. Era come se seguissero una bara. Jim sentiva che Kate aveva una sua idea in testa. Tra lei e Jules i rapporti sembravano buoni. Kate era di nuovo sposata con lui. Era calma. Quando Jules andò a fare i biglietti, Kate, per la prima volta, guardò Jim dritto in faccia. «Quel che avete distrutto», disse. Jim stava per dire qualcosa, si fermò. Le sue parole non avrebbero avuto alcun valore. Presero tutti e tre un minuscolo treno e arrivarono al lago tra colline boscose e lo costeggiarono lungo sentieri attraversati da radici. Camminavano in quel bel pomeriggio che finiva e il legame che aveva unito il terzetto si trascinava dietro di loro, spezzato. Jim ebbe l'impressione che dietro la sua grande riservatezza Kate volesse dargli una speranza. Quale? Si erano detti fino in fondo quel che pensavano alla vigilia della loro separazione ed era questo che contava per Jim, anche più delle lettere che erano venute dopo. Che cosa voleva da lui? E lui perché era venuto? Jules e Jim restavano prudenti davanti alla melanconia di Kate. Come Ulisse si lega a un albero della nave per resistere al canto delle sirene, così Jim doveva irrigidirsi contro il richiamo della voce di Kate. Nel crepuscolo, in riva al lago, un ristorante accese all'improvviso tutti i suoi lampioncini. «Ho fame. Se cenassimo là?» disse Kate con noncuranza. Prese il viale dei boschetti e penetrò nell'ultimo che dava sul lago. Là, in una poltrona di vimini con un sigaro in bocca, stava seduto Harold. «Bella mossa», pensò Jim stupefatto. «Diamine, Harold!» disse Kate. «Che fate qui?» «Prendo il fresco», disse Harold baciando la mano di Kate e stringendo rapidamente quelle di Jules e di Jim. «Cenate con noi?» disse Kate. «Volentieri», disse lui, «se si cena subito». «Avete un appuntamento galante in città?» «Può darsi». Cenarono a un tavolo rotondo, Kate di fronte a Jules, fra Harold e Jim. Jim si chiese se Kate, facendosi giustizia da sola, non avesse escogitato un piano per farlo buttare nel lago. Si sarebbe difeso. La conversazione fu brillante, rapida fra gli altri tre e nella loro lingua. A James fuggì qualche parola e non cercò più di seguire. Harold era là, uomo di mondo. Aveva avuto Kate ragazza e poi alla vigilia del suo matrimonio con Jules. L'aveva avuta anche alla vigilia della prima partenza di Jim, mentre lui era al cinema. Harold era l'esecutore delle vendette di Kate. A James sarebbe piaciuto tirare di box con Harold per conoscerlo meglio. Tentava di immaginarsi il match. Harold e Kate bevvero dei liquori. Dopo cena camminarono tutti e quattro nel bosco di buon passo. Kate si appoggiò un attimo al braccio di Jim per togliersi un sassolino dalla scarpa. Che voleva da lui? Il ritorno, la stazione, il trenino, la città. A piedi costeggiarono un parco. Si fermarono davanti alla casa di Harold, si salutarono. Kate diede Harold una stretta di mano. Raggiunse Jules e Jim. Ecco che ritornavano a casa tutti e tre insieme. Che aveva significato tutto ciò? Kate cambiò idea. «Dammi quel pacchettino», disse a Jules. Lui glielo porse. Lo spago si era stretto intorno al suo mignolo. Lei lo sciolse, si prese il pacchetto, ritornò da Harold, gli prese il braccio con calma, salutò educatamente. «Buonanotte!» E si avviò con lui verso il grande porticato, dove scomparvero. La pesante porta sbatté dietro di loro, in faccia a Jules e Jim, piantati là, sbalorditi. «Altra bella mossa», disse Jim, «secondo colpo di scena e utilizzazione del pigiama bianco». «Non me l'aspettavo». Kate li colpiva tutti e due in una volta. Jim prese il braccio di Jules e camminarono insieme. «Uffa», fece Jim. «Uffa», ripeté piano Jules. «Forse era giusto così», disse Jim. «Mi meraviglio però che non abbia scelto un uomo nuovo per affidargli questa parte. Harold l'è già tanto servito». «Perché?» disse Jules. «Harold era perfetto per stasera». Entrarono in una birreria, bevvero birra fresca, fumarono lunghi Virginia e ripresero fino a tarda notte e senza che Kate c'entrasse la loro conversazione di scapoli. L'indomani a mezzogiorno Jim era ancora a letto nella graziosa cameretta del suo albergo. Aveva fatto dei progetti per i mesi a venire e pensato a delle lettere da scrivere. Il cameriere andò ad avvertirlo che lo volevano al telefono. Jules, senza dubbio. Jim corse alla cabina in fondo al corridoio. «Jim, Jim, Jim». La voce di Kate, la sua voce calda di una volta, la sua voce di leonessa gemente. «Jim, che notte ho passato. La cornice era piacevole, ma era evidente che non avevo niente da fare là. Quella vita, quello spirito, erano morti per me. Era un deserto, Jim, da morirne. Jim, parlavo di te, ti cercavo, Jim. Sei proprio tu? Mi ascolti?» «Sì. Allora vieni subito». E Kate riattaccò. Jim esitò. La trovò nel suo salotto, raggiante. Che importava la beffa concertata del giorno prima? Kate aveva ritrovato la certezza del suo amore intatto. Quella notte era stata una rivelazione. Il suo amore per Jim era sorto come un astro, purificando tutto. La raccontò a Jim con tutti i dettagli, anche cose che potevano respingerlo, in quel modo geniale che lei aveva di raccontare. Jim l'ascoltava con dentro il ricordo della loro sofferenza dell'inverno passato. Aveva gettato terra a palate lui su quell'amore. La lasciava parlare. Lei disse come per caso: «Dei figli, ne avremo quanti ne vorremo adesso. Abbiamo tutta la vita». Questo travolse in Jim gli ultimi argini. Lei non gli chiedeva la sua opinione, lo trascinava via. Come una falda di petrolio che si infiamma in un attimo. Presero fuoco. «E Jules?» chiese finalmente Jim. «Ci ama entrambi, non sarà sorpreso. E soffrirà di meno così. È stato infelice quanto noi quest'inverno. Lo ameremo e lo rispetteremo, a modo nostro». Bussarono alla porta. La voce di Jules diceva: «Le bambine ti aspettano per pranzare». «Entra, Jules!» gridò Kate. Jules entrò. Jim e Kate si tenevano le mani. «Guardaci, Jules!» disse Kate per unirlo a loro. Le sopracciglia di Jules si alzarono, non senza severità. Non sembrò meravigliato. «Jules!» disse Kate. Jim pranza con noi. Bene, su, venite, disse Jules. Le bambine e Mathilde, contagiate dalla gioia della madre, fecero festa a Jim. Rispettarono la casa di Jules, ma Kate andò spesso, Jules era al corrente, da Jim e ci restava fino a mezzanotte. Era duro per loro separarsi a quell'ora. Jules disse a Kate: «Non mi piace che si dica che sono un santo. Un santo si può caricarlo come un asino. No, non sono un santo. Ma che altro posso fare?» Kate e Jim scoppiavano nella disciplina che s'erano volontariamente imposti. Era settembre. Kate disse a Jim: «Noi partiamo». «Per dove?» «Per il paese di Amleto». Saltarono sul primo treno, in piedi nel corridoio ammiravano la contrada piatta che attraversavano e fumavano. Una targa smaltata lo proibiva, il controllore passò e fece loro pagare una multa rilasciando una ricevuta che staccava da un blocchetto. La svalutazione infuriava e la multa era diventata leggera. Continuarono a fumare, come altri viaggiatori nel corridoio. Ogni tanto il controllore passava e rifaceva la multa a tutti. Per i fumatori era diventato un gioco. Lui disse con un sorriso pacato: «A partire da lunedì prossimo ci saranno nuove tariffe e nuovi blocchetti di ricevute». Jim provò ammirazione per quell'uomo. Arrivarono alla frontiera con la Danimarca e scesero in una piccola stazione balneare sperduta fra le dune in quella bella fine d'autunno. Malgrado le norme restrittive, in albergo servivano loro degli stufati che non riuscivano a finire. Il mare del nord si ritirava lontanissimo e lasciava un deserto di sabbia ondulata simile a enormi circonvoluzioni cerebrali, e fra una duna e l'altra dei canali abbastanza profondi. L'alta marea li riempiva di correnti rapide e l'acqua ti accerchiava prendendoti alle spalle. Kate desiderava questo accerchiamento per il piacere che le dava e per la gioia di poter aiutare Jim, nuotatore mediocre in confronto a lei. Si tuffava nuda nell'acqua fredda anche dopo un pasto abbondante e affermava: «Non ho ancora mai avuto una congestione». Trovarono una mattina un banco di sabbia stretto, liscio, duro, lungo diversi chilometri. Vi si scorgeva in fondo una piccola costruzione di legno. Vollero vedere cos'era e andarono fin lì. Un capanno da pesca, vuoto, con dei riflettori, appollaiato su palafitte. Proprio davanti, steso sul dorso, un uccello marino, grande come il palmo della mano, luccicante come un colibrì, morto. Doveva aver urtato contro un riflettore. «Purché non sia un presagio», pensò Jim. Rientrarono appena in tempo per evitare la marea. Jim fece delle fotografie di Kate nuda su quei banchi di sabbia dove non incontrarono mai nessuno. Ce n'era una fra le altre che gli parve la più bella che avesse mai vista. Furono in un certo momento a corto di denaro e pensarono di mandarla a un concorso Kodak. Ma benché fosse presa di spalle, qualcuno avrebbe potuto riconoscere Kate se la foto fosse stata esposta. Lasciarono perdere. 10 giorni trascorsero tra l'azzurro del cielo e il giallo della sabbia. Tenevano sotto controllo gli infimi incidenti che in altri tempi sarebbero potuti diventare malintesi. Durante il viaggio di ritorno nel treno affollato, Kate lasciò per disattenzione che qualcuno prendesse il posto di Jim accanto a lei e Jim dovette restare lontano da lei per delle ore in piedi nel corridoio. Ci rimase male Kate che lui non avesse alzato la voce per protestare. Jim era stato sorpreso che lei avesse lasciato un uomo sedersi al suo posto, anzi lì per lì aveva creduto si trattasse di un ferito di guerra. Dopo fu troppo tardi per reclamare. Ritrovarono la famiglia nella sua grande casa. Kate, le bambine, Mathilde la fecero solennemente visitare a Jim, piena di sole, affacciata su un bosco e su una grande radura. Era stata Kate a cogliere al volo l'occasione. Ne raccontarono a Jim tutta la storia. All'inizio la grande stanza quadrata d'angolo era stata la camera da letto di Kate e Jules, quella accanto, anch'essa quadrata, lo studio di Jules. Poi venivano un salotto, la stanza da pranzo, le altre camere da letto sul davanti. Kate aveva cominciato a dare per i suoi amici ricevimenti sempre più grandiosi e Jules li aveva trovati troppo frequenti per il suo lavoro. Aveva ritirato il suo studio di stanza in stanza fino alle più piccole. Poi ebbero camere separate. Jules, desideroso di isolamento e incalzato dalle attività di Kate, si scelse allora la sola camera che desse sul cortile e dichiarò che gli sarebbe servita anche da studio. Fece mettere tutto intorno delle scaffalature che arrivavano fino al soffitto e vi accatastò i suoi libri. Là viveva da monaco e tranquillo, quando Kate non lo chiamava. Gli faceva piacere che lei andasse a fargli visita nella sua camera, ma non che gli facesse incontrare gente. Durante i 2 anni passati allo chalet, avevano subaffittato la casa e l'avevano ritrovata l'autunno precedente. Jules era più presente nella vita di Kate da quando Jim ne faceva parte. Jim faceva lunghe visite a Jules nel suo ritiro, ascoltava frammenti dei suoi nuovi libri e lo aiutava nelle traduzioni. Kate accettava che lavorassero. Che faceva lei nel frattempo? Dipingeva, su grandi tende bianche, in un modo simbolico, vagamente cubista, tutta la sua storia con Jim. Tranne certi dettagli realistici, un occhio non avvertito non vi distingueva nulla, ma quando Kate, armata di una lunga bacchetta, ebbe illustrato a Jim quel pio itinerario, lui poté ricostruirlo a suo piacimento e ammirarlo a suo comodo. Kate e Jules avevano accolto di nuovo Jim in casa loro e lui non viveva più in albergo. Kate aveva 2 amiche ancora in villeggiatura che voleva far conoscere a Jim. Parlava spesso di loro esagerandone al dire di Jules le qualità. Erano molto diverse fra loro. Una vinceva premi ai concorsi ippici, l'altra era assistente sociale. Nessuna delle due era sposata. A Kate piaceva immaginarsi Jim innamorato dell'una o dell'altra. Quel che lui avrebbe detto, quel che loro avrebbero risposto, diventò una specie di gioco a tavola con Jules e le bambine. A poco la cosa assunse per Kate una certa realtà. Con generosità faceva sposare Jim di volta in volta con l'una o l'altra delle sue amiche. Jim rideva e sentiva di appartenere a Kate. Kate salì assieme a Jim le scale che portavano a casa dell'Amazzone. Col cuore che batteva forte si fermò sul pianerottolo prima di suonare e disse: «Fra 10 secondi ne amerai un'altra». E lo baciò. L'Amazzone era di buona razza e aveva grinta. Offrì loro dei cocktail, chiacchierarono. Tutto quel che non era cavalli per lei contava appena. L'accompagnarono nel cortile di una caserma dove saltò su una giumenta nervosa degli ostacoli sempre più alti. Bello spettacolo che però non impressionò Jim, mentre lei da parte sua non prestava alcuna attenzione a quell'uomo che non andava a cavallo. La cosa finì lì. «Allora», dichiarò Kate, «sarà Angelica». Appena questa fu tornata in città, Kate portò Jim a trovarla. Un ambiente impeccabile e allegro. La ragazza aveva cuore e cervello ed era appassionata del suo lavoro. Jim, nonostante gli sforzi di Kate per valorizzarlo, sembrò non farle alcuna impressione. «È molto riservata e la cosa può ancora succedere». «Ci vuole un po' di tempo», disse Kate dopo la visita. «E tu, Jim, che cosa pensi di lei?» «È perfetta nel suo genere. Se fossimo su un'isola deserta, lei ed io forse potremmo notarci e finire per fondare una famiglia». Kate era sollevata e delusa al tempo stesso. Jules seguiva tutta la faccenda con più serietà di Jim, la metteva in relazione con le sue divinità indù. Jules sembrava spesso abbastanza felice. Kate e Jim lo sentivano come un Buddha che li conosceva meglio di quanto si conoscessero loro stessi. Come Letizia, la madre di Napoleone, lui diceva «pur che duri». Jules sapeva giocare con Kate assai meglio di Jim a fare finta. Cantavano e mimavano con le bambine canzoni popolari tedesche e francesi. Il loro «brave marin revient de guerre, tout doux» commuoveva Jim quando la bella ostessa chinava la testa davanti al coraggioso marinaio che le diceva «Vous aviez de lui 3 enfants, vous en avez 4 à présent». Kate inventò un gioco, lo scemo del villaggio. Il villaggio era tutta la tavola, lo scemo era Jim. Il gioco consisteva nel parlare allo scemo, avendo paura di lui, senza lasciarglielo vedere e senza contrariarlo, facendo però capire agli altri a che punto lo si trovasse scemo. Kate, soprattutto, scatenava pazze risate. Jim si rimetteva a ridere molte ore dopo. Si sentiva davvero lo scemo del villaggio. Kate entrò nella stanza da pranzo con Lisbeth e Martin. Fischiava, acuto come un piffero, un'allegra marcia militare di Federico il Grande. Sfilarono tutte e 3 intorno al tavolo come un piccolo reggimento. Kate raccontò su di lui aneddoti sbalorditivi. Teneva sulla sua scrivania un'impressionante riproduzione della maschera mortuaria di Federico, grande idealista inappagato. L'ossatura somigliava a quella del viso di Kate. A quella maschera lei chiedeva consiglio prima di decidere le sue spedizioni punitive. Avrebbe voluto che lui e Napoleone si fossero battuti. Sarebbe stato un bel match.